e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, bentornati. Oggi, come sempre, un menù ricco, ricchissimo di spunti. Vi dico solo qualcosa: caffè, sonno, terrazzi, balconi, fumo. E come sempre il nostro numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24, messaggi e WhatsApp al 349 238 6666. Allora direi di non perdere tempo e partire. Comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo passato. Sono le 10.36, Deborah non c'è ma torna domani e per prendere un po' la carica, affrontare una puntata intera di Cuore Denari, ho deciso di prendermi un altro caffè. Lo prendete insieme a me? Io posto la mia foto su Facebook, voi mandatemi la vostra su WhatsApp. Sarà un po' come incontrarci alla macchinetta, incontrarci al bar, luoghi che sappiamo sono indicati per fare un po' due chiacchiere con amici, per fare due chiacchiere insieme a me e insieme soprattutto agli esperti di Cuore Denari. 800 24 00 24. Torno al caffè, ce l'ho qua vicino a me, quello di stamattina per me è un rito, per noi è un rito. Prima di andare in onda insieme a Deborah, Marco e Laura ce lo beviamo e ce lo gustiamo con grande piacere, e adesso abbiamo anche il placet della scienza. Ascoltate che cosa hanno scoperto i ricercatori e poi se volete andate a prendervi il caffè di metà mattina, ma restate con me, lo sorseggiamo insieme. Lunga vita agli amanti del caffè. Chi ne beve tre tazzine al giorno sembra essere più longevo dei non bevitori. Questo è il risultato a cui sono giunti gli esperti dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e dell'Imperial College di Londra, che hanno preso in esame per circa 16 anni oltre 500.000 di individui in 10 paesi europei, tra cui l'Italia. Gli effetti positivi della tazzulella sono indipendenti dal metodo di preparazione e anche dalla scelta tra decaffeinato o caffè normale. Nello specifico, gli esperti hanno ipotizzato che i benefici del caffè siano multipli, ad esempio che abbia effetti protettivi significativi sul fegato e che più in generale eserciti i suoi effetti su tutto l'organismo, grazie all'elevato contenuto di antiossidanti. Insomma, più lo mandi giù, più ti tira su. Mai pubblicità fu così azzeccata, tra l'altro in tempi non sospetti. Ma c'è chi deve contenersi, trattenersi, insomma anche evitare di bere il caffè dal pomeriggio in avanti per non correre il rischio di passare una notte disturbato, addirittura in bianco, parecchio agitata. Ma sarà vero? O anche questa è una delle tante bufale di luoghi comuni sul sonno? Pensate che Graham Love ne ha raccolti 40 in questo libro. Tra l'altro è un signore che di sonno ne sa parecchio, perché è presidente onorario di una società che in Inghilterra si occupa proprio di sonno. E noi abbiamo il nostro esperto, l'abbiamo chiamato in linea con noi, il dottor Lino Nobili, responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno dottor Nobili. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, lei ha scritto 100 risposte sul sonno, il suo collega se l'è cavata con 40 bufale sul Morfeo. Cioè, non voglio dire, già i numeri lo battiamo. Comunque, ne ha raccolte tante diverse, ad esempio che non è vero che si deve dormire 8 ore, che non è vero che il formaggio fa venire gli incubi, che non si deve svegliare un sonnambulo, o ancora, questa non l'avevo mai sentita, che per fare un buon pisolino si debba tenere in mano un cucchiaio, un cucchiaino che sia. Dottor Nobili. Ma sinceramente... Bizzarro non bene, questo inglese. No. Sì, non ho bene l'idea di quello del cucchiaio, per esempio il sonnambulo, non svegliare un sonnambulo, lo diceva anche la nonna, le nonne l'hanno sempre detto, cioè in effetti ha un significato, un sonnambulo può, specialmente se uno si spaventa e lo sveglia bruscamente, siccome è in uno stato che è a metà tra veglia e sonno, potrebbe avere anche dei comportamenti non adeguati, quindi il sonnambulo è meglio accompagnarlo a letto tranquillamente, quindi questo sono assolutamente d'accordo. Non so dirle molto sul cucchiaino invece. Ecco, però invece sul tema pisolino le dico io che sta diventando un business, e lo dico anche ai nostri ascoltatori, chissà che a qualcuno si accendono dei pensieri, perché stanno fiorendo attività che mettono a disposizione dei propri clienti degli spazi dove poter riposare in cambio naturalmente del pagamento di una tariffa. L'ultimo in ordine di tempo è Siesta in Go, che ha recentemente aperto a Madrid. Allora, la domanda è: voi quanto sareste disposti a pagare per schiacciare un pisolino? 800 24 00 24. Dottor Nobili, noi mettiamo su insieme con i nostri ascoltatori questa sorta di spazio pisolino a pagamento. Lei ogni tanto viene da una visitina e il business è fatto. Perfetto. Senti, a proposito di pisolino, noi naturalmente metteremo su un pisolino come il FO, cioè la ricerca, infatti, e gli esperti di medicina del sonno dicono che il pisolino fa bene, ma deve avere alcune caratteristiche. Le ripetiamo? Ma il pisolino in effetti è un'abitudine che può fare benissimo e da un po' di tempo alcuni nei paesi del nord hanno già inserito la possibilità di fare anche il pisolino sul lavoro, perché lo chiamano addirittura anche power nap, nel senso che ci dà energia per ripartire. Qual è il problema? Che questo pisolino deve essere possibilmente di una durata non troppo lunga, perché il rischio è quello di svegliarci in sonno profondo. Se noi dormiamo 40 minuti è molto probabile che se ci svegliamo dopo 40 minuti ci si svegli in sonno profondo. Il rischio quindi è quello di aversi riposato un po', ma di essere confusi, di avere quel fenomeno che si chiama ubriacatura da sonno, per cui in realtà ci si sente meno pronti. Quindi il tonnellino buono è quello che dura una ventina di minuti, ci permette però così di anche, può durare anche meno, anche 15, ci permette di vincere quella sonno sonnolenza immediata e di andare avanti per il resto della giornata, quindi questo è assolutamente efficace. 800 24 00 24, se fate il pisolino, se magari lo fate solo il sabato e la domenica. Intanto vi dico che Filippo Aureggi, che è in regia alla parte tecnica, per noi è quasi una novità, il pisolino il sabato e la domenica se lo fa, vero? Anche più che un pisolino, un ronfone, cioè direi due o tre ore, altro che sonno profondo. Professor, dottor Nobili, torniamo alle nostre bufale. Secondo lei, lasciamo stare l'inglese, qual è la falsa notizia, bufala, che dir si voglia, luogo comune sul sonno e sull'insonnia, che rischiano di portarci lontano dalla soluzione e dalla gestione del problema? Perché io tutte le volte che parlo di sonno con lei arrivano tantissime telefonate, tante richieste, lei lo sa bene perché poi le inviamo le mail dei nostri ascoltatori. Il sonno è un problema per tante persone, anche per quelle che dormono e al mattino si sentono stanche. Ma guarda, il problema principale che avviene su questo aspetto è che lo si trascura, cioè che lo si considera un po' un aspetto minore, come se dovesse risolversi da solo o come se ci potessero mettere anche in atto delle terapie un po' fai da te. Questo è l'aspetto più comune. In realtà è vero, può essere assolutamente una cosa transitoria, ma purtroppo spesso un disturbo del sonno, se non lo si mette a posto già dall'inizio, rischia di diventare un'abitudine non adeguata e che alla fine ha delle ripercussioni che conosciamo tutte. Quindi secondo me l'aspetto più bufala è il fatto di trascurarlo il sonno, come pensando che sia un qualche cosa assolutamente così un po' irrilevante. Questo succede molto spesso. Dottor Nobili, ma un periodo più o meno lungo di sonno non di qualità dobbiamo metterlo in conto, perché le preoccupazioni, oppure un periodo, perché le preoccupazioni tolgono il sonno e tutti ne abbiamo, chi più chi meno, oppure magari abbiamo cambiato dieta, uno stile di vita che ha subito dei cambiamenti per una serie infinita di motivi, vanno tutte a pesare sulla qualità del nostro sonno. 10-15 giorni, un mesetto di sonni non di qualità, bastano a cambiare il ritmo del nostro sonno e a metterci quindi a rischio di insonnia? Ma quando il nostro disturbo dura da qualche settimana comincia a diventare un rischio di stabilizzarsi. Quindi se noi superiamo 3 settimane il disturbo comincia a diventare qualcosa di che può essere anche serio e di difficilmente se ne va via da solo. Poi è chiaro, ci sono delle situazioni che ognuno affronta nella propria vita e che possono essere problematiche, e quindi il disturbo del sonno è solo il sintomo di quel disturbo legato più a quello che sta succedendo nella propria vita, e se ne va parallelamente se le cose cambiano. Però qualche volta il disturbo del sonno può rimanere anche se poi le cose si assestano, perché purtroppo il nostro cervello, il nostro comportamento legato al sonno può apprendere delle cose che non sono più adeguate. Quindi se il disturbo persiste per più di 2 settimane io comincerei a pensare Consultate il medico, come si dice. Sì, o cerchiamo di renderci conto cos'è che facciamo di sbagliato. Ad esempio un nostro amico ci scrive al 349-238-6666, ve lo leggo prima di andare a sentire il traffico. Leggevo di notte con l'iPad, notavo che facevo fatica a dormire anche dopo. Ho smesso e ho ripreso a dormire bene. Perché? Ha fatto bene, ma glielo spieghiamo subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire estate mai. Ci siamo, ma a volte il nostro sonno diventa disturbato. All'800 24 00 24 ne stiamo parlando insieme al dottor Lino Nobili. Dottore, abbiamo detto che ci sono dei piccoli cambiamenti del nostro stile di vita che possono avere di ripercussioni sulla qualità del nostro sonno. Prima delle informazioni sul traffico ho letto il messaggio dell'ascoltatore che ha smesso di leggere prima di dormire sull'iPad e ha ritrovato un riposo di qualità e ci dice perché il risultato è buono, ma qual è il motivo? Ci sono 2 motivi. Il primo, che è stato dimostrato anche con studi vari negli ultimi anni, è che la stimolazione luminosa dello stesso iPad agisce su quelle centri del sistema nervoso centrale che facilitano l'addormentamento e la produzione di sostanze come la melatonina. Quindi la luce mantiene la veglia, inibisce i processi di addormentamento ed è anche proprio la luce che viene dal monitor di un computer, da un iPad e da un cellulare. Ora infatti ci sono dei sistemi per evitare questo tipo di luce che si chiama luce blu, è una particolare luce con delle frequenze che ha questo effetto. L'altro aspetto è che spesso quando ci si mette a navigare sull'iPad prima di addormentarsi ci si attiva, quindi c'è un aspetto anche psicologico, un aspetto più cognitivo che disturba di nuovo l'addormentamento, quindi lontano dal letto questo tipo di dispositivi. Anche se un ascoltatore mi segnala subito che ci sono dei tablet o degli altri dispositivi che se usati per leggere prima di andare a dormire non incidono negativamente sul sonno, evidentemente perché hanno questa protezione. Sì. E così abbiamo letto anche Tonio. Dottor Nobili, si prepari, sono arrivate io non so quante mail, richieste di aiuto eccetera, le faremo perdere il sonno e intanto andiamo a Foggia. Antonio, buongiorno. Salve, buongiorno. Antonio, grazie, scusi, ma perché si dice fuggi da Foggia? Si dice fuggi da Foggia non per Foggia ma per i foggiani. È un modo di dire, però... È un modo di dire, ma noi lì... Siamo tutte brave persone. Certo. Antonio, eccola qua, ci racconti. Allora, le spiego. Praticamente io vivo una situazione un po' particolare. In realtà... Col sonno non è che sono andato d'accordo, quindi voglio dire nel tempo ho avuto sempre un po' dei problemi. Allora io faccio un lavoro che inizio dalle 7:30 di mattina, quindi poi vado a pranzo verso 1:30. Sì, ma arriviamo al buono, alla notte, okay. Sì, perché... No, le spiego questo perché è importante capire questo. Cioè, praticamente questo io ho mezz'ora di pausa, anche 45 minuti a volte. Poi ricomincio il pomeriggio e fino alla sera alle 19 lavoro. Ci ho fatto caso che praticamente facendo questi orari difficilmente riesco a prendere sonno la sera. Cioè a qualsiasi orario vado a riposare. Invece riposando il pomeriggio, un'oretta, anche un'oretta e mezza, il sonno riesco a prendere sonno la sera. Perché come Antonio sonno chiama sonno, dottor Nobili? Sì, è una cosa che è stata segnalata e ci sono alcune persone in cui questo fenomeno si verifica, perché in questo modo facendo un riposino durante il giorno riducono comunque una iperattivazione, una iperattivazione che diventa quasi paradossa alla fine e comporta invece l'eccesso contrario, è come succede nel bambino. Se un bambino è deprivato di sonno non ha la manifestazione tipica della sonnolenza, può essere addirittura iperattivo. Alcuni adulti mantengono questo aspetto e fare un sonnellino gli permette di arrivare al momento della notte più tranquillo. Dottor Nobili, molte richieste di aiuto perché molti ascoltatori si lamentano di non riuscire ad addormentarsi per effetto del caldo, ma anche l'aria condizionata non aiuta, mi scrive un gruppo di amici. Allora, è fisiologico quando è caldo non riuscire ad addormentarsi, perché non è che, no, quando fa caldo è un problema di temperatura in questo caso, non di insonnia, dottor Nobili, perché la nostra temperatura deve scendere e noi cadiamo tra le braccia di Morfeo. Assolutamente, questo è il meccanismo che regola di più l'addormentamento in tutti, nell'uomo che vive in Africa, al centro dell'Africa, come quello che vive in Europa. La temperatura regola il nostro sonno in maniera fondamentale, la riduzione della temperatura facilita l'addormentamento, quindi un aumento della temperatura esterna, come succede in questo periodo, ostacola l'addormentamento e favorisce anche i risvegli notturni. Questa è una cosa che ad esempio succede molto più frequentemente nei bambini. Senta, ma se io prima di per chi non ha l'aria condizionata e quindi fa arieggia un po', cerca di fare un po' le correnti d'aria, prima di andare a letto, una doccia, non dico gelata perché poi ti viene poi la cervicale e la coperta è sempre lì, abbastanza corta, se fa bene da una parte poi rischiamo dall'altra, ma un rinfrescarsi con una doccia potrebbe essere un buon metodo per iniziare a prepararsi per il sonno? Per alcune persone lo è, perché comunque agisce sull'effetto della temperatura, per altri la doccia è un altro di quei meccanismi attivanti che risveglia, quindi ognuno deve avere un po' la sua strategia, bisogna conoscerci come per tante altre variabili, che è quello della, anche il sonno ha degli aspetti che sono assolutamente personalizzati, se uno trova che quella è la sua strada, assolutamente ha un senso abbassare la temperatura con la doccia. Comunque questo è quello che dobbiamo fare, se siamo accaldati non mettiamoci a letto perché ci giriamo come un pesciolone sul lavello e non riusciamo a prendere sonno, quindi cerchiamo di fare qualcosa ma rinfreschiamoci, la nostra temperatura deve scendere. Intanto ringrazio gli amici, gli ultimi di Rimini, che mi mandano le foto su WhatsApp con il sorseggiando un caffè. Dottor Nobili, potrebbe mandarmi una foto anche sua. Intanto io vado da Simona, che ci chiama da Torino. Simona, buongiorno. Buongiorno. Simona ci porta a parlare di bambini. Simona, anche il dottor Nobili l'ha messa lì, la pulce sui bambini che si svegliano di notte e fanno svegliare anche i genitori. Simona. Esatto. È proprio quello che è successo a me. Quando mia figlia è nata, mia figlia non ha mai avuto problemi di sonno, anzi mi è sempre piaciuto dormire. Quando è nata mia figlia, non siamo stati tra i genitori fortunati di quei bimbi che dormono 4, 5, 6 ore di seguito, e lei purtroppo si svegliava anche dopo le poppate, quando è stata un po' più grandina, diverse volte. Sì, conosco bene. A ballare la rumba con questi sarà no, perché i genitori non devono tirarli su. Adesso il dottor Nobili ci fa un pippone. Dottor Nobili, è colpa dei genitori? No, non voglio dire niente in anticipo, no, i genitori non hanno mai colpe. Simona, no, quindi, per concludere, il suo sonno è rimasto disturbato. Bambini, eccetera. Adesso io, nella fase poi della crescita, mia figlia ha perso questa, si è regolarizzata da sola, però io non ho più recuperato il sonno. Ecco. Vedo al di là del vetro Laura Vanossi che ride, perché anche lei conosce bene il problema. Allora, dottor Nobili, abbiamo un minutino e mezzo per dare un consiglio agli ascoltatori che si trovano descritti nel caso di Simona. Beh, è una cosa molto frequente, molti bambini non hanno un sonno continuo. Qualche volta questo aspetto si risolve assolutamente da solo, qualche volta persiste proprio perché poi ci sono dei meccanismi sbagliati che mettono in atto anche i genitori, che magari alla fine disperati e anche comprensibile fanno delle cose che non fanno altro che aumentare questo aspetto. Tra l'altro si discute molto, no, del co-sleeping, se bisogna farlo o non bisogna farlo, perché molti genitori se lo mettono a letto per riuscire a farlo dormire. Ci sono aspetti positivi e negativi del co-sleeping. Io quello funzionalmente penso che insegnare a un bambino a dormire da solo e quindi fa parte anche della sua crescita, quindi non sono molto favorevole, anche se capisco che questo può succedere. Purtroppo può succedere che il disturbo nel bambino se ne vada solo, sì, e invece il genitore rimane questo condizionamento. E quindi voi seguiteci per la prossima volta, parleremo proprio di questo insieme al dottor Nobili, che ringraziamo per aver partecipato a Cuore Denari. GR e di nuovo insieme. Cuore e denari. Seconda parte di Cuore e denari, lo sapete. A noi piace prenderci cura di voi, pensando al benessere, alla gestione di tanti aspetti anche pratici della vita, non ultimi appunto i denari. E se c'è un luogo in cui tutte queste dimensioni si concretizzano è senz'altro la nostra casa. Provate a pensarci, la nostra casa, che può essere sì il nostro nido, il nostro rifugio, il posto dove ci rilassiamo, ma anche essere fonte di stress e di tante cose da fare, da organizzare e da pagare. Anche quando vogliamo migliorare gli spazi in cui viviamo la casa, questo ci richiede impegno e, lo sappiamo bene, qualche sacrificio anche economico, ma poi il risultato, come si dice, merita, no? Può premiarci in termini di qualità della vita e di soddisfazione. State ristrutturando casa vostra? Chiamateci 800 24 00 24 perché abbiamo la nostra esperta con cui ogni mese parliamo ed è protagonista della nostra rubrica La Radio è di Casa, che è tornata proprio oggi a trovarci. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. La radio è di casa. E questa è la sigletta che introduce la nostra amica Rita Campana, architetto e punto di riferimento per questo spazio. Bentornata Rita. Ciao Nicoletta, buongiorno. Allora, io ho lanciato l'amo ai nostri ascoltatori, ho detto: avete qualche ristrutturazione in corso, avete bisogno di un consiglio, il nostro numero è verde, noi abbiamo la nostra esperta pronta a darvi una mano a coniugare cuore e denari, perché la casa è proprio un luogo cuore e denari. Tu in diversi appuntamenti ci hai accompagnato in una stanza diversa della nostra casa, il living, la cucina, il terrazzo. Oggi facciamo un esperimento nuovo. Perché? Perché proviamo a immaginarci in modo diverso degli spazi di cui già abbiamo parlato e a darci l'ispirazione proprio alla stagione estiva, perché in estate viene più, no, viene quasi naturale per chi può permetterselo cercare un po' di fresco, un momento di relax proprio in terrazzo o nel nostro balcone, se non è proprio mini mini, oppure per chi può permetterselo e chi può averlo, un bel giardinetto. E allora, una volta che siamo all'aperto, sarebbe ancora più bello mangiare da soli, o meglio ancora in compagnia, e cucinare direttamente nelle aree esterne della nostra casa. Quindi oggi i tuoi consigli si concentreranno proprio su questo, sulle aree esterne, che noi vivremo come proprio una seconda casa. Rita. Sì, esatto, Nicoletta. Oggi parleremo appunto di cucine all'aperto. Infatti sfruttare appieno lo spazio significa anche utilizzarlo, come dicevi tu, per colazioni, pranzi, cene, e per preparare i pasti all'aperto ci vengono appunto in aiuto le cucine progettate per l'esterno. E queste ultime infatti devono essere costituite da materiali resistenti agli agenti atmosferici, all'usura, con un'ottima tenuta termica e anche in grado di invecchiare senza perdere il loro fascino. Quindi dotarsi di una cucina da esterno ci permette di essere poi svincolati dal cucinare all'interno e portare i vari piatti in tavola all'aperto. Allora, coinvolgo subito i nostri amici all'800240024 oppure al 349-238-66 per SMS e WhatsApp. Anche se per voi la cucina all'aperto, come per me, è un sogno che vi sembra irrealizzabile, invece raccontateci magari se l'avete accarezzato, se amate apparecchiare anche solo in un balconcino proprio per prendere il famoso caffè con cui abbiamo iniziato la puntata, di quali spazi disponete all'aperto, avete magari pensato di attrezzarli predisponendo la possibilità di cucinare. Noi siamo qui per voi come sempre, anche aspettiamo le vostre foto, se ne avete, dei giorni scorsi, dell'estate passate, con tavole imbandite, cucine all'aperto, mandatecele. Rita, noi partiamo dallo spazio perché è con quello che noi dobbiamo fare i conti. Qual è lo spazio minimo necessario per poter allestare una piccola cucina? Proviamo a capire chi può trovare una soluzione, chi invece deve magari provare a sognare una casa diversa per poterlo ospitare, oppure rassegnarsi e fare un piatto pronto, mozzare le pomodore e va a mangiarsela in balcone. Ecco. Guarda, nello scegliere e progettare la propria cucina all'aperto è importante innanzitutto avere le idee chiare sullo spazio che vogliamo o possiamo dedicarle, sì, e sugli accessori di cui deve essere dotata. Uno spazio all'aperto ridotto, come ad esempio un piccolo terrazzo, non preclude comunque la possibilità di fornirsi di una piccola cucina. se consideri che alcuni modelli, ad esempio, sono di circa un metro di lunghezza e 65 di profondità, possono adattarsi veramente a tanti ambienti. Un metro di lunghezza, 65 di profondità. Di profondità. Ecco, sì, l'importante è che non ci sia solamente poi questo, questa piccola cucina. Dobbiamo poi avere anche lo spazio per girarci intorno per poi goderla. No, perché io mi faccio subito delle illusioni. Senti Rita, ma è possibile anche immaginare una cucina scomparsa che si tira fuori solo se necessario, oppure a una cucina mobile? Sì, certo, possiamo optare appunto per un modello mobile per poterla appunto spostare o riporre a seconda delle esigenze, come ad esempio quelle su ruote, che naturalmente poi hanno un sistema di bloccaggio, e quindi la cucina può rimanere sempre a vista, oppure possiamo anche pensare di organizzare una nicchia, ad esempio poi chiusa da antilegno, in cui riporla quando ovviamente non è utilizzata. Magari d'inverno. Allora, esatto. Ho un grill a gas sul balcone, me lo uso tantissimo, quasi più d'inverno che d'estate, vedi, ci scrive un nostro ascoltatore. Sì. Intanto stanno arrivando le foto su WhatsApp al 349-238-6666. Rita, tu hai una piccola cucina anche all'esterno oppure le progetti solo? Io non ancora, devo dire, però sto pensando di organizzarla in giardino, effettivamente. Vedi che stai anche tu accarezzando l'idea. Esatto. Ti mando da una brava che partecipa a Cuore Denari. Sai quel programma di quelle due ragazze? Va bene, comunque, sì. Torniamo alla nostra cucina. Allestire una cucina, però, comporta l'utilizzo di fuochi, di collegamenti con il gas, di fonti di calore in generale. Non deve essere proprio un gioco da ragazzi, organizzare questi spazi, soprattutto garantendo, che è la cosa più importante, la sicurezza. Ci dai qualche consiglio? Sì, certo. Guarda, intanto in caso di installazione di piastre o fuochi a gas, a meno di non avere gli attacchi della cucina molto comodi, quindi da poter portare all'esterno e non è sempre possibile o di facile realizzazione, conviene scegliere modelli che abbiano già la bombola incorporata e quindi siano autosufficienti. Sì. Per quanto riguarda invece l'attacco elettrico, consiglio sempre di farlo predisporre, perché molti modelli, proprio per ovviare al problema gas, si utilizzano i fuochi a induzione e in più è sempre comodo poi avere la possibilità di illuminare la zona sopra la cucina, così che l'area di cottura non rimane in ombra. E certo, perché dobbiamo vedere bene quello che stiamo cucinando. Certo. Sì. Allora, un ascoltatore ci riporta un tema che abbiamo trattato proprio nei giorni scorsi con Deborah, con un esperto di Deborah, un avvocato tra l'altro molto simpatico, che ci chiede, vorrei volentieri cucinare ogni tanto una bella bistecca in balcone, ma in un condominio si può? E l'odore o il fumo? Allora, non si può, è un problema di fuochi, non è di odore, vero Rita? Allora, ci sono delle regole sia a livello di codice civile ma anche a livello condominiale, sì. E tra l'altro ci sono alcuni regolamenti che variano da comune a comune, quindi bisogna informarsi nel proprio comune di residenza e in più bisogna anche informarsi se a livello di condominio è stato regolamentato l'utilizzo di appunto modalità di cottura all'esterno. Diciamo che la norma vuole che si cerchi di fare in modo di non dar troppo fastidio al vicino, quindi se è una cosa sporadica o che non fa troppo fumo o troppo odore non c'è nessun problema. Andrea ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Tutto benissimo. Oh, bravo. Allora Andrea, ci faccia sognare. No, allora sognare sì. No, è un po' tanto. No, vi spiego. Io questa primavera ho ristrutturato casa, dalla cucina che avevo molto grande, ho tirato fuori una camera da letto e un bagno, ho spostato la cucina sul balcone, una bella terrazza di 30 metri quadri, eccetera, coperta, eccetera, eccetera. Due cose, primo, finalmente... Ma quindi mi scusi, ma la cucina in casa lei non ce l'ha più? C'è non tutto. Ce l'ho più. Ma d'inverno, quando sarà il 23 di dicembre, il pranzo di Natale lei e la vigilia, dove lo prepara in balcone? Sì, certo. Al freddo? Al freddo, mi metto il piumino e... Che uomo! Allora, e lei? No, il problema è tecnico. Cioè, il mio balcone è esposto a sud, quindi diciamo prende il sole tutto il giorno. E purtroppo il frigo, per esempio, non raffreddava più perché è esposto al sole tutto il giorno, e quindi primo errore. Secondo errore, appunto, qualche raffreddore occasionale, visto che ha fatto quindi freddo. È ancora un problema termico più di... Sì, però una tempura meravigliosa a tutta l'anda. Credo. Senta Andrea, ma Rita Campana come può aiutarla? Ormai devo dire, lei ha fatto, ha già comperato, e quindi se ha fatto degli errori già li ha fatti. Gli errori li ho già fatti, appunto, in primis quello del frigo. Per il resto me la sono cavata bene, perché comunque ristrutturando la camera e il bagno ho fatto gli attacchi del gas metano fuori, quindi ho continuato, insomma, a usare tutti gli attrezzi che avevo. Però ecco qualche inconveniente: una cucina all'aperto da utilizzare 365 giorni all'anno. L'idea è un po', me la lasci dire Andrea, un po' bizzarra, direi originale. Rita Campana, ti era mai capitato? No, a dire la verità, soltanto cucina da esterno, no. E infatti, no. Il nostro è la prima volta anche per me. Infatti, c'è sempre una prima volta. A Cuore Denari ci piace che ce ne siano tante. E, in effetti, Andrea, con questa soluzione un po' originale, ha già messo in evidenza due aspetti che, anche se per chi la cucina la mette solamente e la vuole utilizzare solo nei mesi estivi, sono aspetti che vanno considerati, Rita. Sì, certo. Guarda, mi riallaccio a proposito di questo, al discorso delle coperture. Sì. Nel senso che per una cucina da esterno non è necessario prevedere una copertura, perché appunto sono fatte in materiali appositi, ma io la consiglio sempre, in primo luogo perché ci permette di poterla utilizzare senza stare sotto al sole cocente, e anche appunto di poterla poi di poterne usufruire nelle mezze stagioni. In più, una copertura naturalmente allungherà anche la vita della nostra cucina. Certo. Perché ecco, il materiale, apriamo capitolo materiali, sì. Prima poi di trasferirci in spazi più ampi, il materiale è come sempre, ma in modo particolare per le cucine all'esterno, e quindi che sono esposte un po' alle intemperie, fa la differenza. Sì, quali certo. sono le ultime novità sul mercato? Perché immagino che la ricerca abbia trovato delle soluzioni. Allora, l'acciaio, ad esempio, l'acciaio inox è un materiale che è sempre molto utilizzato per le cucine all'esterno, perché si abbina molto bene a diversi contesti, quindi sia moderni che un po' più rustici. È resistente agli agenti atmosferici, e io ad esempio lo consiglio soprattutto per gli elettrodomestici, perché appunto consente di poter dare una lunga vita alla nostra cucina. Per il top e la struttura sono molto utilizzati anche materiali come lastre di pietra e granito, sì. oppure materiali ceramici come il grass porcellanato, oppure ancora materiali invece decisamente più tecnologici composti da quarzo, resine e cementi. Naturalmente anche il legno può essere utilizzato, purché scelto tra essenze resistenti come ad esempio il teak o l'iroquois opportunamente trattato. Senti, ci hai fatto un po' sognare, però veniamo al tasto dolente. Tasto dolente. Bravo. Allora, fino a qua ha parlato il cuore, adesso devono parlare i denari. Proviamo, sì. Aiutaci a farci un po' un'idea dei prezzi per le diverse soluzioni. Siamo partite da una soluzione piccola per balconi di dimensioni ridotte, e poi ci allargheremo naturalmente a terrazzi come quello del nostro amico Andrea che è intervenuto prima, quindi sì. terrazzi di una certa metratura. Andiamo sui prezzi. Allora, consideriamo che il prezzo di una cucina da esterno varia molto in base alle dimensioni, alle attrezzature e alle tipologie dei materiali impiegati. Quindi possiamo partire da un prezzo base, perciò per quelle un pochino più compatte, più piccole, intorno ai 1.500-2.000 euro. Poi andiamo a salire, specialmente per quelle realizzate in muratura e modelli di design che viaggiano intorno ai 5.000-7.000 euro. E a cui naturalmente poi dobbiamo ricordarci di aggiungere i lavori per portare gli attacchi perlomeno elettrici e idrici. E per le cucine più attrezzate, quindi con magari con diversi tipi di cottura, forno, frigo, alcune poi addirittura... lì non c'è che l'imbarazzo della scelta. Se esatto. uno poi ha lo spazio e vuole spendere lì a spendere possiamo no? salire ecco. tranquillamente, superare facilmente 10.000 euro all'infinito. E lì sarebbe bello. Senti, quindi però si parte da 1.500-2.000 euro per le esatto. soluzioni più piccole. Sì. Siamo saliti e si sale a seconda anche in relazione alle dimensioni dello spazio che vogliamo certo. attrezzare. Ecco, proviamo a sognare in grande, quindi spazi più ampi, terrazze, addirittura giardini. Come ci si potrebbe organizzare in questi casi? Sappiamo che il budget naturalmente aumenta. Certo, in questo caso possiamo appunto permetterci di organizzare una vera e propria area cucina e pranzo all'aperto. E pensiamo che la dimensione minima per avere una cucina dotata di tutti i comfort, quindi per spazi che possono sostenerla, è intorno ai 3 metri. Perciò prevediamo inizialmente i lavori necessari per portare nella zona esterna impianto elettrico, gas se necessario, come dicevamo prima, impianto idrico. Poi scegliamo il modello di cucina che meglio incontri i nostri gusti, ma sempre facendo attenzione soprattutto alla praticità, durabilità dei materiali. Pensiamo poi, infine, alle funzioni da includere nella nostra cucina all'aperto, come lavello, piano cottura, griglia, forno, friggitrice e frigo. Inizialmente è meglio acquistare i moduli che siamo sicuri di utilizzare e poi eventualmente aggiungere in un secondo momento. Rita, la richiesta di alcuni ascoltatori al 349-238-6666 è di occuparci anche dell'ombra, e quindi noi allestiamo la cucina, di fianco probabilmente metteremo un tavolo o tavolino, ecco, per ombreggiare, quindi per non sederci con il soleone che ci batte in testa. Che cosa consigli? Classico ombrellone, delle pergole, delle strutture? Quali soluzioni un po' originali puoi proporre per coniugare cuore e denari, come ci scrive Ambra? Allora, io direi che se abbiamo la cucina vicino appunto alla muratura di casa, che è la maggior parte delle situazioni, appunto, a meno di non avere uno spazio molto ampio, conviene magari dotarci o di un tendaggio o di un pergolato, che sarebbero le cose migliori, perché diciamo che sono interventi fissi o semifissi e che ci danno una possibilità di copertura abbastanza ampia, perché l'ombrellone, a meno di non scegliere modelli un po' oversize, naturalmente non... L'ombrellone va bene proprio per il tavolino, ci sono quei tavolini che in centro hanno il buco per l'ombrellone, sono già dotati. Dell'ombrellone. Invece per quanto riguarda la cucina e un pochino la zona in cui pranzare, è meglio qualcosa di un po' più ampio. Poi se invece abbiamo un giardino, anche un bel gazebo sicuramente sta benissimo nel coprire l'area della cucina e l'area pranzo. Veniamo invece ai materiali, qua arrivano i suggerimenti dei nostri amici via WhatsApp per tavolini, sedie, mobiletti che non siano di plastica ma resistenti come la plastica e a buon mercato. C'è qualcosa di nuovo? Questa è la domanda di Carlo Alberto. Allora, devo dire che a livello di materiali per l'arredo dell'esterno c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Sì, a parte la plastica, che effettivamente sì, è resistente, però allo stesso tempo ricordiamoci che comunque risente abbastanza del calore, quindi nel lungo periodo può dare un po' di problemi. Ci sono tante soluzioni, come ad esempio ricordiamo sempre il settore metalli, quindi o il ferro battuto oppure l'alluminio, naturalmente sempre trattati appositamente per l'esterno. Ci sono i legni, come dicevamo prima, quindi teak, iroko, anche questi trattati per l'esterno. Oppure anche materiali plastici che stimolano il legno, quindi ci danno un po' l'effetto caldo, però sono appunto i materiali compositi, quindi non in essenze naturali, che prima o poi avranno naturalmente bisogno minimo di manutenzione. Ecco, e quindi sono materiali che possono stare fuori, possono prendere anche la pioggia, perché lo sai che in giardino, quando poi uno mette le poltrone, i cuscini, eccetera, quando inizia a piovere, ci sono tante persone, quando inizia a piovere spariscono tutti, almeno a me in giardino dalla mia mamma in campagna, poi tocca a me tirare su, quindi mettere dentro il tutto. Ecco, invece questi materiali di cui tu ci hai parlato, che come prezzi poi magari ci darai un'idea, immagino che siano prezzi sicuramente comunque più alti della sedia in plastica che troviamo anche al supermercato, possiamo lasciarli fuori al sole o con la pioggia, non si rovinano, sono trattati per questi. Anche per quanto riguarda, considera cuscini, quindi cuscini sia dello schienale che delle sedute, sono anche quelli disponibili, i materiali apposti, quindi sono i materiali sintetici che sono fatti proprio per resistere all'umidità, alle intemperie, alla muffa, perché ricordiamo che un tessuto che sta all'aperto può essere soggetto a questo tipo di problematica. Ma è possibile lo stesso utilizzare materiali naturali come cotone e lino, ma in questo caso appunto dobbiamo ricordarci, nel momento in cui non li usiamo per molto tempo o c'è brutto tempo, di portarli all'interno per ripararli un attimo. Allora, Luisa ci chiede che cosa ne pensi tu dei tappeti per esterni, che sono molto di moda e che mimano un po' il disegno dei tappeti persiani. A me piacciono moltissimo i tappeti per esterno, perché comunque riescono a personalizzare un ambiente che non è... Con una metodologia tipica dell'interno, che invece portiamo a questo punto all'esterno, in modo da creare questa affinità fra ambienti interni ed esterni. Anche questi naturalmente sono studiati in materiali appositi, quindi non degradano, non creano muffe, e ce ne sono tantissimi, di tantissime varietà, sia appunto, come diceva ascoltatrice, che con colori e forme classici, ma anche tantissimi moderni e molto colorati. Allora, Rita, hai detto che stavi accarezzando l'idea di costruirti in giardino uno spazio. Allora, sì. Mi raccomando, noi aspettiamo il disegno, vogliamo vedere, ecco, e naturalmente l'invito. Grazie, certo. Rita Campana, per essere stata con noi. Buona giornata, io do la linea naturalmente ai mercati e poi torno con voi, perché in estate è piacevole mangiare fuori, attrezzarci, fare delle... Però l'estate potrebbe essere anche la stagione giusta per provare a smettere di fumare. Andiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Lo avevo anticipato prima dei mercati, a Cuore Denari torniamo a parlare di fumo. Non è mai troppo tardi per smettere, per ritentarci e provarci, e l'estate potrebbe essere il momento giusto. 800 24 00 24, la mia convocazione oggi è molto breve. Volete smettere? Ci avete tentato ma non ce l'avete fatta? Siete passati alla sigaretta elettronica? Chiamateci. Oggi tanti consigli per aiutarci a fare la grande svolta e aggiornamenti anche riguardo alle ultime novità. In nostra compagnia, naturalmente, il dottor Roberto Boffi. Buongiorno. Buongiorno, Nicoletta. Il Roberto, come si dice a Milano, è responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e, come gli ascoltatori assidui di Cuore Denari sanno bene, insieme alla dottoressa Munarini ha, per gli ascoltatori di Cuore Denari, svolge questo sorta di aiuto, di supporto clinico e psicologico per gli ascoltatori di Cuore Denari che decidono di provare a smettere di fumare o hanno già preso questa decisione ma vogliono essere un po' sostenuti, perché si fa il grande passo ma poi la tentazione a tornare indietro è forte. Ma, dottor Boffi, come lei tante volte ripete quando viene a trovarci, non è mai troppo tardi per provare a smettere e a ritentarci. Se non ce l'abbiamo fatta, non c'è che da guadagnare a ritentare nuovamente, e l'estate sembra essere un momento propizio. Dottor Boffi, perché? Ma ancora buongiorno a tutti, anche ai radioascoltatori. L'estate è una stagione che vuol dire tante cose, no? Molte volte staccare un po' con la routine quotidiana, rilassarsi, fare più attività fisica, mangiare magari anche in maniera più salutare, vivere all'aria aperta. Non esiste la stagione naturalmente perfetta, no, per smettere di fumare, però statisticamente l'estate, per questi motivi che ho appena citato, è quella che numericamente vediamo avere più probabilità di aiutare il fumatore a riuscirci. E poi magari c'è il momento delicato, quello del ritorno dalle vacanze, che è un altro momento un po'... Ma noi ci saremo, forse. Però certo, però intanto il primum movens, insomma, si dice che inizia bene, no? A metà dell'opera, potrebbe essere sicuramente una buona occasione, quella delle ferie estive al mare o in montagna. Anche il caldo, secondo me, aiuta. Anche il caldo, no? Sì, perché fa comunque caldo l'idea di avere tu questa, sì, cosa poi, calda, se che vuole, ti gira poi intorno. Parliamo anche delle spiagge così, o delle montagne, sì. Insomma, Sono ambienti, le spiagge, dove il fumo fa ancora più a pugni, ecco. Dottor Boffi, lo so che le spiagge, lo so che le stanno particolarmente a cuore. Vogliamo anticiparlo, perché la ragione, ad esempio... Sì, perché si parla da tanti anni dei mozziconi, no? Nella sabbia, che è una cosa che mi ha fatto sempre abbastanza schifo anche da genitore, però c'è il problema anche del fumo passivo, a cui, diciamo, noi ci siamo dedicati in questi anni con i nostri studi sul fumo passivo a 5 metri, da un ombrellone. Abbiamo visto che ci sono livelli 2-3 volte superiori a quelli del traffico in un centro città, e quindi ci fa molto piacere che oggi sia stata annunciata ufficialmente che il 2018 una delle più grandi spiagge d'Italia, che è quella di Bibbione, tramite anche, grazie anche ai nostri studi condotti con la loro col loro comune, col loro sindaco, diventerà una spiaggia totalmente senza fumo. 8 chilometri di coste per tutta la sua larghezza. È un bellissimo progetto che si chiama Respira il Mare, e la sua fase sperimentale è iniziata proprio nel 2011. Con, ancora una volta, c'è il suo zampino, dottor Boffi. Perché in questi anni noi facciamo le ricerche, comunichiamo i dati, diciamo, a scopo sensibilizzante, oltre che perché fanno parte della nostra missione essendo un istituto di ricerca. Però quello che è importante è stato che gli amministratori comunali hanno rilevato in questi anni un aumento del turismo, in particolare quello delle famiglie, quindi non assolutamente questi divieti, anche se finora solo parziali, no? Per le prime file di ombrelloni non hanno fatto desistere di incentivare il turismo, neanche quello straniero, anzi Bibbione è diventata una spiaggia ancora più frequentata, oltre che con un'aria più salubre. Allora, parleremo naturalmente, a proposito di ricerche, anche di studi che avete svolto, che mettono a confronto le sigarette elettroniche, le sigarette con fumo freddo. Adesso noi, quando parliamo di fumo elettronico, dobbiamo fare dei distinguo. Voi l'avete fatto, e per questo invito gli amici che sono passati alla sigaretta elettronica a chiamarci per saperne di più. 800 24 00 24, ma si sta diffondendo anche quello che è, viene detto, il fumo duale: si fuma la sigaretta e si fuma anche l'elettronica. Dottor Boffi. Questo non va bene, non va bene per chi le usa, le sigarette elettroniche, o peggio ancora quelle col fumo freddo, tabacco riscaldato, che dir si voglia, insieme alle altre. E poi non va bene per chi sta vicino, per gli ambienti indoor, perché purtroppo molti di questi doppi fumatori vanno a fumare le sigarette tradizionali fuori, dove è consentito, e al chiuso, nei bar, nei ristoranti, addirittura, ahimè, anche negli ospedali, svapano o usano le sigarette col tabacco freddo. Questo secondo noi è assolutamente negativo e da censurare. Ma perché? Perché lo fanno? No, non perché lo fanno. Voi lo confrontate, ma voi avete in uno studio pubblicato... No, perché lo fanno è naturale, è ovvio, certo. Perché è scomodo andare fuori a fumare. Io capisco il fumatore, però ci sono delle leggi, e quindi alla fine dei conti poi la maggior parte dei fumatori sono stati anche contenti della legge Sirchia. Però questo secondo noi è un po' un tornare indietro. Tornare indietro, non so, a livello etico, diciamo, anche di immagine, ma, no, ma anche di ambiente, perché un pochino queste, poco tanto, se vuole poi specifichiamo le varie gradazioni di inquinamento, poco tanto questi nuovi prodotti alternativi al fumo tradizionale inquinano, intossicano l'ambiente, quindi non rendono l'ambiente completamente pulito come dovrebbe essere al chiuso. Allora, naturalmente faremo le differenze tra questi diversi prodotti, ma abbiamo subito i nostri ascoltatori a cui abbiamo lanciato la sfida, e ricordo che il dottor Boffi e la dottoressa Munarini, che è una psicoterapeuta, potrebbero aiutarvi a fare questo passo. Approfittiamone. Roberta da Modena e poi Stefano da Milano. Roberta, buongiorno. Ah, buongiorno a voi. Ma buongiorno. Grazie per avermi chiamato. Io purtroppo sì, sono una che fuma, non tanto, perché 7 sigarette, ma per me sono tante comunque, perché le gradisco tutte, o quasi. Lo so. per un periodo di tempo mi sono limitata alle 4 e fumavo anche quella elettronica, perché poi mi rendo conto che quelle che si assaporano veramente sono 3-4 al giorno, ecco, non di più. Le altre sono inutili. Però tant'è la mia domanda però è questa, visto che forza di volontà è zero, L'ipnosi, quanto può essere consigliata? Roberta, lei è molto simpatica, veramente. Mi piace molto, anche perché ha messo subito, tanto che forza di volontà è zero. Dottor Boffi, un bel caso sfidante per lei, se la giochi. Intanto è un'omonima, quindi va bene. E già è bella per questo. Esatto, mi sento particolarmente responsabilizzato. Poi non è vero che la volontà è zero, se no non avrebbe chiamato, è banale questo, ma mi pare evidente che ha un rapporto ambiguo, diciamo, ambivalente verso il fumo, di amore e odio, però non è così contenta di fumare, se no non farebbe domande tipo questa dell'ipnosi. L'ipnosi finora non ha dimostrato sui grandi numeri, le cosiddette meta-analisi, un'efficacia di cessazione definitiva o almeno un anno sufficiente, statisticamente significativa, per essere considerato un metodo antifumo validato. Con questo non significa, così come l'auricoloterapia, che non ci siano delle persone a cui questi metodi un po' acuti, diciamo scioccanti, non possano funzionare, perché no? Il mio consiglio è, se deciderà di provarla, di mettersi in mano uno psicoterapeuta valido, insomma, che la segua poi anche dopo, nelle settimane successive, perché molte volte purtroppo questi metodi immediati, no, di cessazione, poi nelle settimane successive magari non impediscono di avere un po' di malessere, diciamo, di sindrome di astinenza, e quindi un supporto psicologico, anche medico, può aiutarlo. Anche, e posso aggiungere, dottor Boffi, anche la rete degli amici che fa il tifo per noi aiuta. Dottor Boffi, una domanda, perché mi torna in mente, io ho avuto il piacere di essere al 31 maggio da voi in istituto, all'Istituto Nazionale dei Tumori, per un evento che lei ogni anno organizza per le scuole, e c'erano tanti esperti, tra cui un farmacologo, il professor Chiamulera, giusto? Che mi è piaciuto, esatto, molto. Di Ma, bravo. E, riguardo al numero di sigarette, ci sono tante persone che fumano poco e non si sentono tanto fumatori, perché si dice: ma sì, ho fumato quattro sigarette, fumo quattro sigarette, me ne tengo due. Ecco, alle due però non rinuncio. Me ne fumo una dopo cena la sera. Potrà mica farmi male con tutta l'aria inquinata che respiro. Dottor Boffi, c'era una domanda di un questionario che metteva proprio ben chiara questa, ci faceva prendere un po' consapevolezza di questo fatto, del numero di sigarette che bastano per farci arruolare nell'esercito dei fumatori. Ci racconta? Ma sì, intanto si dice, perché è così, diciamo, da pneumologo, da medico, che non esiste la soglia minima accettabile, il danno cosiddetto genotossico, pur reversibile, provocato da una sigaretta, dalle sigarette, viene generato anche da una sola sigaretta o dal fumo passivo, quindi non esiste una soglia minima tollerabile. Questa è la grossa differenza in termini di danno con l'alcol, tra tabacco e alcol. Quello che fa male dell'alcol, perlomeno negli adulti, è l'abuso, non il bicchiere di vino, per intenderci. Quello che fa male del tabacco, invece, è l'uso. Quindi una sola sigaretta fa male. Certo che ci sono delle gradualità di danno e anche di dipendenza. Quindi più si fuma, più soprattutto si comincia ad aver voglia e ci si arrende, tra virgolette, tutte le mattine quando si sveglia e si fuma sempre prima, al mattino, la prima sigaretta, più questo è segno di una raggiunta dipendenza fisica. E allora lì è un po' difficile magari pensare a delle strategie solo psicologiche, tipo quella dell'ipnosi che ha appena prospettato la radioascoltatrice. Allora è meglio attingere alla farmacologia, a farmaci più sicuramente e più efficaci, non solo nel far smettere di fumare, ma nel non ricadere poi a breve, a medio e a lungo termine, come la vareniclina, bupropione, la cetisina, terapia nicotinica. Quindi ci sono varie gradazioni, anche con differenze genetiche che noi abbiamo verificato con un semplice prelievo del sangue. Abbiamo uno studio in corso di pubblicazione molto importante che dimostra come c'è una predisposizione. Me lo racconta dopo, così li teniamo con noi. 800 24 00 24, poi andiamo da Stefano da Milano e parliamo di fumo freddo, di sigaretta elettronica. A tra poco con voi, insieme al dottor Boffi. Cuore e denari. La sigaretta elettronica mi ha trasformato la mente. Non sono più dipendente e adesso il presente lo vivo. Siamo tornati insieme, voglia d'estate, voglia di smettere di fumare. Chissà, magari ce la facciamo, qualcuno ce l'ha fatta. Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei Nicoletta e ai suoi ospiti, grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, ci racconti Stefano. Sempre un'ottima compagnia in viaggio con voi. Allora, io porto della testimonianza, io ero un ex fumatore, sono circa 15 anni che non fumo più, fumavo in media un pacchetto e mezzo al giorno, arrivando a volte a due, viaggiando sempre in macchina, la sigaretta era la tua amica, nemica, complice, quindi era la tua compagnia. Diciamo che per me smettere di fumare, forse per il mio carattere, ho sempre vissuto obiettivi, no? Io mi sono dato un obiettivo dove, a rientro di un viaggio in Messico, quindi un ambiente molto caldo, fumavo circa quasi, a volte toccavo anche i 3 pacchetti al giorno. E quindi tornando in Italia c'è stata questa compressione dei polmoni, cioè, non respiro più. Quindi mi sono detto, caspita, qui devo fare qualcosa, però la nicotina è cattiva, è subdola, è una droga fondamentalmente, perché tutto ciò che tu non controlli vuol dire che ti va a manipolare il tuo cervello. Allora io mi sono detto, guarda, facciamo così, io dal 1 luglio smetto di fumare. Quindi fumavo 2 pacchetti tranquillamente, sì, di Marlboro, quindi scusatemi se ho detto, sì, per dire la pesantezza della nicotina. A questo punto cosa ho fatto? Una mattina dopo l'Odi faccio gasolio, scendo, scheda carburante, il benzinaio 0107. Ho detto, caspita, oggi è 1 luglio, devo smettere di fumare. Avevo il pacchetto di sigarette in mano, l'ho guardato, l'ho stritolato, infatti il benzinaio mi guardava, tutto è pazzo, ha detto. L'ho stritolato e l'ho buttato nel cestino. E io sono da 2 pacchetti a 0 in un giorno. Allora, io vorrei portare la mia testimonianza, che può essere anche utile forse per chi ci sta ascoltando, che vuole smettere di fumare. Tutti me lo chiedono, ma come hai fatto? La cosa più semplice per smettere di fumare è non fumare. Cioè, è una banalità questa cosa, lo dico, lo so, che non, però è l'unico modo per smettere di fumare, basta non fumare. Visto che il professor Boffi sicuramente è un luminare di questo tipo di situazione, mi confermerà che ci sono 2 famosi tempi della sigaretta. Il tempo tra una sigaretta e l'altra, quindi il tuo cervello ogni tot ti dice fuma, e un pulsante on off di quanto, quando tu smetti di fumare, quanto il tuo cervello continua a chiederti la nicotina. Che quando uno smette, può darsi che la voglia di fumare è ogni 5 minuti e il desiderio di fumare è di 2 ore. Quando uno smette di fumare, questi 2 tempi si invertono. Che cosa significa? Che il desiderio di una sigaretta e l'altra, a volte, anziché essere di 10 minuti, diventa un quarto d'ora, ma l'input di ricerca di nicotina diminuisce. Riassumo, io adesso sono 15 anni che ho smesso di fumare, mi viene ancora voglia di fumare, ma sì, mi viene ogni 2 anni, dopo una grigliata con amici. A proposito di spazi esterni, Stefano, lei mi dà grandi soddisfazioni e penso anche al dottor Boffi. Dottor Boffi, ma ha sentito Stefano? Quanto è avanti? Sì, bravo. Può sicuramente contagiare positivamente altre persone, perché è così entusiasta e convinto di quello che ha fatto. Io l'unica cosa che dico però è che ognuno deve trovare il suo metodo. Il metodo di Stefano è sicuramente stato efficace per Stefano. Altre persone hanno bisogno magari di tempi un pochino più diluiti e di maturare di più la decisione, e magari ci mettono un po' più di settimane o mesi per liberarsi dalla dipendenza fisica, però sicuramente alla base ci deve essere una motivazione forte e stabilire una data. L'inizio del mese spesso è una data che fa gioco, è sicuramente una buona partenza per un tentativo che ha possibilità di successo. Mi è piaciuto dell'intervento di Stefano la descrizione dei tempi. Appunto, ognuno deve trovare anche i suoi tempi, i suoi ritmi e le sue piccole grandi soddisfazioni. È un percorso smette di fumare. Noi anche sull'impegnativa del medico di famiglia, quando ci viene inviato il fumatore al centro antifumo, chiediamo che venga scritto visita specialistica per percorso di disossefazione da fumo, non quindi per shock o per una bacchetta magica, no? Non promettiamo soluzioni miracolistiche, ma un cammino è un aiuto, un supporto, una danza insieme al fumatore. Allora, dottor Boffi, andiamo alle sigarette elettroniche, le sigarette con fumo freddo, tabacco riscaldato. Rapidamente un piccolo specchietto a beneficio dei nostri amici che ci stanno ascoltando, e così facciamo le differenze, soprattutto se ci sono degli aggiornamenti. Sì. È importante magari condividerli con noi. Le stiamo studiando e andremo avanti nei prossimi anni. Se si ricorda, abbiamo intervistato anche un collega catalano, il professor Steve Fernandez Munoz, qualche mese fa, con cui stiamo facendo un progetto europeo proprio per cercare di standardizzare le ricerche sul fumo e il vapore passivo. Le sigarette elettroniche sono sempre più in voga, specialmente tra i giovani, che in molti casi, secondo noi assolutamente in maniera erronea, sono convinti della loro totale innocuità. Poi ci sono le sigarette. Mi scusi, col però fumo la freddo. Fermo un secondo. Sì. I genitori di adolescenti che vedono tra il rischio di vedere il ragazzino che fuma una sigaretta tradizionale e quello che invece fuma la sigaretta elettronica, io da genitore dico fuma l'elettronica. Sì, certo. Però faccio male? No, però non sappiamo ancora quanti di questi ragazzi che svapano passeranno poi alla sigaretta tradizionale. Ma se restano? Cioè, mi sembra restano, che ci sia un po' la differenza tra Tina Peake e Marilyn Monroe, ecco. Sicuramente creeremo una nuova generazione di dipendenti alla nicotina che l'assumeranno in maniera meno dannosa rispetto a quanto fanno i loro genitori fumatori. Okay. Questo potrebbe essere un buon compromesso, però deve essere supportato negli anni da una percentuale bassa di persone che passano al tabacco, perché se 11% di consumatori di sigaretta elettronica sono minorenni, cioè sono gente che non ha mai fumato prima, la paura è che sia un'iniziazione che porta poi a qualcos'altro, e questo è un rischio che ovviamente noi medici non possiamo condividere, ecco. Okay. E poi c'è il discorso dell'indoor, cioè le sigarette elettroniche, ok, non si possono usare nelle scuole, ma nei bar, nei ristoranti, nelle discoteche sì, non si viola la legge, quindi il ragazzo impara a fumare o diciamo svapare in ambienti dove da 12 anni sa che non si può più fumare, che se lo fa viola la legge. Quindi questo è secondo noi un arretramento anche culturale rispetto, certo. Esatto, andiamo avanti. Perché comunque la nicotina ambientale non è bella, la maggior parte Senta, dei ragazzi usa dottor la sigaretta Boffi, elettronica. Io ho 30 secondi, lei deve tornare perché il tema è molto interessante. 30 secondi, ma 30? Sì, sulle sigarette col fumo freddo, che sono relativamente poco conosciute, un ibrido tra sigaretta elettronica e quella tradizionale, usa tabacco vero e proprio, lì abbiamo trovato sostanze cancerogene come le aldeide, in particolare la formaldeide, e secondo noi questo quindi è ancora più grave che ne venga consentito l'uso nei luoghi chiusi, nei luoghi pubblici, e questo purtroppo sarà, penso, visto l'investimento della multinazionale del tabacco, sì, soprattutto in Italia di questi ultimi mesi, sarà il problema dei prossimi anni. Dottor Boffi, a presto, intanto proviamoci, noi ci sentiamo domani, torna anche Deborah, intanto buon pomeriggio da Nico.